tempo. Radio Tube Social Village di Marta Cagnola. Ci siamo con le nostre due ore in diretta insieme con Radio Tube Social Village e Radio Tube Social Network. Prima parliamo di tutte le cose interessanti che ci sono in giro in questo periodo in fatto di musica, cinema, televisione, eventi. Veramente questa settimana abbiamo un sacco di cose da raccontare. Parliamo della serie TV del momento, parliamo di un evento molto bello che sta per iniziare a Milano, parleremo molto di musica con dei grandi ospiti, vabbè, soprattutto avremo due ospiti straordinarie, due donne che io adoro. Per mettervi in contatto con noi, insomma, per tenerci compagnia, 349-238-6666 è il numero per gli sms e per i whatsapp, e chiocciola Marta Cagnola, il mio account di Twitter e il mio account di Instagram, così vedete già chi sono le due ospiti che sono venute a trovarci, perché abbiamo già pubblicato una foto su Instagram. Insomma, tanta carne al fuoco per queste due ore di diretta, ma prima partirei con un personaggio di cui siamo innamorati tutti, ma proprio tutti. Arrivati quelli che dicono no, invece a me piaceva di più Paperino. Vabbè, dai, non sottilizziamo. Tutti siamo o siamo stati da bambini molto affezionati a Topolino. Sapete che Topolino compie gli anni? Allora, ne compie proprio oggi, 18 novembre 89. Quindi tecnicamente iniziano le celebrazioni per il 90° anno di Topolino. Mi pare che li porti piuttosto bene. Allora, se voi mi chiedeste qual è il mio giornale preferito, vabbè, ovviamente vi direi il Sole 24 Ore, però ce n'è un altro che è nel mio cuore, che è appunto Topolino. Andiamo a sentire se a Topolino festeggiano. Ci colleghiamo con il direttore di Topolino, anzi la direttora direttorissima, Valentina De Poli. Buongiorno Valentina, bentornata. Buongiorno, grazie Marta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora auguri anche a te, alla tua redazione, perché insomma, visto che Topolino compie gli anni oggi, si festeggia. Festeggiate? Sì, festeggiamo, abbiamo già festeggiato e soprattutto ci stiamo attrezzando per un anno intero di festeggiamenti, quelli, come hai detto tu bene prima, che ci porteranno al 90° anniversario, perché insomma sarà un anno veramente speciale. Li porta bene sto Topolino, eh? Beh, io direi di sì, li porta bene anche perché è una magia particolare, un'alchimia, per cui lui comunque cresce, cambia, eppure rimane sempre giovane e nel senso molto connesso con, io parlo di lettori, ma naturalmente anche per chi non legge Topolino, anche per chi conosce Topolino per altro, riesce sempre a essere in sintonia, cioè con le persone di tutte le età, quindi una magia incredibile che insomma solo i grandi personaggi hanno. Eh sì, perché i bambini di adesso che vivono con il tablet in mano, che quando vedono i giornali di carta pensano che si possano cliccare come i tablet e come i telefonini, però sono ancora affezionati, e il fatto che voi abbiate ancora un sacco di lettori lo testimonia. Come siete riusciti a tenere legati anche i bambini che non sono più abituati alla carta? Beh, credo che un grande complicità la troviamo negli adulti, in quanto sono loro i primi tifosi. Quelli, cioè, che quando i più grandi trasmettere... hanno i bambini, non vedono l'ora di comprare loro Topolino. Esatto, e questo perché forse un po' timidamente pensano di non essere più loro, no? I lettori favoriti dicono no, non abbiamo più l'età, quindi non vedono l'ora di avere la scusa per poter fare arrivare in casa il giornale, che effettivamente a tutti gli effetti è un giornale familiare, però c'è un bambino e quindi con fierezza, ed questa è una delle cose a cui penso con grandissimo piacere tutte le settimane, immagino un genitore che è fiero e dà al suo bambino il giornalino, il nostro giornale da sfogliare. E sul discorso dell'iPad, comunque dei nativi digitali, È stranissimo, perché effettivamente noi qualche anno fa, pensando di fare cosa graditissima, ci siamo trasferiti anche sul digitale, per cui con un grandissimo lancio, Topolino su iPad, che a tutti gli effetti all'inizio sì, ha incuriosito, però ho aneddoti di genitori che sono venuti a raccontarmi di aver regalato l'abbonamento digitale a per Natale, per un compleanno ai propri figli, che però dopo un anno hanno chiesto di tornare a quello di carta, perché loro lo vogliono proprio sentire. Ah, che bello, è una bella notizia per i giornalisti, che i bambini non si siano disabituati del tutto al giornale di carta, al giornalino. Ma credo che questo poi sia molto particolare, un po' per il formato, un po' perché effettivamente mi facevano esempi: a colazione loro vogliono avere il giornale, magari leggono 3 pagine sono momenti che si creano proprio diversi da tutti gli altri. Che bellino il giornale letto a colazione, oddio. Guarda, sto diventando una vecchia rimbambita, mi commuovo, capito? Vero, Valentina, così hai ragione, noi stessi siamo sempre con qualche device in mano, se non è un device è un telecomando, quindi effettivamente è un'immagine che crea commozione, davvero. Valentina, come sono cambiate le storie di Topolino oggi? Beh, insomma, sono cambiate anche perché cambia proprio il modo di narrare. Oggi i nostri sceneggiatori, che sono diciamo il cuore proprio pulsante delle storie, perché sono loro che danno vita alle avventure dei personaggi Disney a fumetti, e normalmente non lavorano solo per noi, ma sono stati in grado anche di applicare la loro professione in altri ambiti, per cui l'influenza da parte della televisione, della scrittura del cinema, esperienze anche di narrativa, insomma, il modo di narrare è cambiato anche grazie alla crescita professionale di chi si dedica oggi alla scrittura delle storie, per cui le storie sono cambiate proprio anche nel linguaggio, nel proporre una regia, nel proporre delle battute tra personaggi. Le storie oggi sono sicuramente più complesse di quelle anche solo di 20 anni fa. Ah, sono più complesse perché sì, i bambini sono più... No, in realtà questo è un dibattito proprio di questi giorni. In realtà non perché c'è, è proprio una... I bambini in realtà, secondo me, quando una storia comunque è bella, è una storia avvincente, riescono a rimanere agganciati anche senza delle semplificazioni estreme che vengono pensate su misura per loro, questo no. Come complessità io intendo proprio i temi che vengono scelti, cioè vengono non solo l'avventura pura, però con i nostri personaggi effettivamente riusciamo a parlare anche di cose che riguardano l'attualità, di green, di ecologia, celebrare delle manifestazioni, sempre naturalmente rispettando i codici propri dei personaggi a fumetti, per cui di conseguenza le storie si sono fatte più complesse, non è avventura pura, ma c'è anche dell'altra ciccia attaccata, per cui sì, decisamente, anche perché ti devi misurare davvero con una concorrenza che è infinita. Non puoi andare semplificando, insomma, questo è. Direttore, prima ho detto direttora, subito è arrivato un messaggio. Si dice direttrice, non direttora, ma stiamo scherzando. Su via un po' di leggerezza, su via un po' di leggerezza. Direttrice non mi giro. No, anche perché direttrice mi sembra quella di scuola. Sempre, anche per chi mi prende in giro che mi dice direttore. Ecco. Valentina, ti chiedo solo un'ultima cosa, perché tra poco dobbiamo andare con la viabilità. Che cosa si fa per festeggiarlo? Io ho visto che addirittura ci sono dei francobolli ufficiali, esatto, proprio. Bravissima, meravigliosi, perché sono stati realizzati dal maestro Cavazzano, che è diciamo il capo, al momento è il simbolo, è l'essenza dell'artista del fumetto Disney, non solo fumetto, perché lui è un artista a tutto tondo, che ha interpretato 8 età diverse di Topolino, età intese come la sua evoluzione a fumetti, con 8 illustrazioni meravigliose che sono diventate francobolli da un'iniziativa che è la prima istituzionale per celebrare il 90° anniversario di Topolino, di Mickey, la prima organizzata da Disney Italia con Poste Italiane. Noi su Topolino naturalmente abbiamo voluto raccontare questa avventura proprio nel giornale che ne edicola questa settimana. Si possono vedere le immagini di Cavazzano con il suo commento e del perché ha scelto proprio quel tipo di immagine, che poi vedremo per tutto l'anno riprodotta sui francobolli, e quindi Io penso che gli auguri amici si potranno fare in un modo anche speciale, andando a prendere addirittura una cartolina magari. Ma infatti lo stavo dicendo io, vado a comprare una cartolina e scrivo una cartolina solo per i francobolli. Guarda, è meraviglioso anche perché parlando di digitale, se ci pensi bene, anche il francobollo mette un po' di commozione. È vero, è vero. Grazie Valentina, grazie al direttore, la direttora, la direttrice, come volete, di Topolino, Valentina De Poli. Grazie, alla prossima Valentina. Grazie a te Marta. Ciao. Noi andiamo a sentire come va la situazione su strade e autostrade e poi veniamo a Milano, veniamo a sentire qualcosa di interessante che succederà a Milano. Radio Tube Social Village. Vita, fino al male che fa male, la ricerca più ostinata di quel bene esistenziale, che è cercare di piacersi e di riuscire a fare in tempo. Sono stato attento. E Nicolò Fabi è uno degli appuntamenti più belli, più attesi, più importanti, più ricchi della Milano Music Week. Lo so che chi ci ascolta da fuori Milano dice vabbè, ma parlate di un evento solo milanese. No, però è un evento davvero importante. Sono molto contenta di parlarne. Dal 20 al 26 novembre, così chi venisse a Milano il prossimo fine settimana ha già qualche idea di una settimana interamente dedicata alla musica in Italia. È una settimana che coinvolge tutta la filiera musicale a livello nazionale, quindi non solo concerti, non solo artisti, ma un sacco di manifestazioni interessanti. Insomma, Milano per una settimana la capitale della musica in Italia e io sono contentissima di poterne parlare con un totem, una leggenda, un grande punto di riferimento della musica in Italia, con Luca De Gennaro, direttore artistico. Ciao Luca! Ciao Marta, ciao a tutti gli ascoltatori. Che meraviglia quando posso averti a Radio 24, che ti rapisco così virtualmente a Radio 24. Luca, bello sapere, poter plasmare una città della musica per una settimana. Sì, è bellissimo, tra l'altro alla fine è un po' il mestiere che ho sempre fatto, cioè quello di fare delle scalette, no? Fare delle playlist. Una playlistona. Esatto, mettere in fila musica e eventi musicali, lo si può fare alla radio, lo si può fare in televisione, ma lo si può fare usando, come player, un'intera città e tutti gli organismi, i luoghi, le persone, le strutture che producono musica e la fanno arrivare alla gente. Quindi insomma abbiamo messo insieme negli ultimi mesi con un piccolissimo gruppo di lavoro un bel programma, perché saranno 200 artisti che a livelli diversi saliranno su dei palchi, ci saranno 70 posti dove si fa musica, un centinaio di concerti, quasi 60 DJ set, diverse anche occasioni, come tu stavi accennando prima, di vivere la musica non per forza solo andando a vedere un concerto, nel senso che è chiaro che la parte della musica dal vivo la fa da padrone, a partire appunto dall'evento inaugurale che, come tu ricordavi, avrà Nicolò Fabi come protagonista lunedì sera al Teatro Dal Verme. Però diciamo che ci sono mille iniziative. Abbiamo invitato tutte le persone e le strutture che conosco a inventarsi qualcosa anche di originale, per far capire che dietro la musica c'è del lavoro, c'è della creazione, c'è della creatività. E quindi per esempio ci sarà, mi vengono in mente un paio di cose, Mare Culturale Urbano, che è un centro culturale in zona San Siro, tutti i giorni degli autori case di edizioni musicali Curci la mattina andranno lì per scrivere canzoni e la sera faranno sentire alla gente le canzoni che hanno scritto durante una mattinata. Beh, ma è meraviglioso! Come nasce una canzone? Sì, la musica che da zero diventa qualcosa nel giro di poche ore, quindi cresce. Quindi è bello vedere il processo della creazione. Così come anche invece sabato prossimo una grossa casa discografica, che è la Warner, aprirà per tutto il pomeriggio i suoi uffici ai ragazzi che vogliono far sentire la loro musica e sono aspiranti artisti, e i loro, diciamo, interlocutori saranno gli artisti della stessa casa discografica, quindi personaggi della musica già consolidati che ti potranno dare un riscontro immediato sulle tue canzoni. E queste sono solo due delle cose che mi vengono in mente, perché ci saranno tantissimi, come si dice adesso, panel, no? Cioè incontri e situazioni in cui si può sviscerare tutto ciò che riguarda la musica, l'organizzazione della musica. Ci sono degli incontri professionali, c'è all'interno della Milano Music Week un evento che si chiama Line Check, organizzato da Elita, che è un evento propriamente professionale, con dei delegati che vengono anche dall'estero per discutere di cose che riguardano appunto il futuro della musica e della tecnologia applicata alla musica stessa. Quindi diciamo che tu prima dicevi uno potrebbe organizzarsi per venire a Milano nel weekend, ma io esagererei e direi prendetevi anche una settimana di vacanza, nel senso che se interessa tutto il mondo che circola intorno alla musica, questa settimana, da lunedì a domenica prossima, stare a Milano indubbiamente vuol dire avere mille possibilità di imparare, di vedere, di essere, insomma, di incuriosirsi e di soddisfare la propria curiosità. Luca, ti saluto con la frase che hai scelto tu, presa da il papà di tutti i conduttori, giornalisti radiofonici e DJ, John Peel: non siamo qui per dare alla gente quello che vuole, ma quello che ancora non sa di volere. Quindi andate al sito milanomusicweek.it, prendetevi queste ferie, perché se lo dice Luca De Gennaro, io mi fiderei, io di Luca De Gennaro mi fido. Grazie Luca per essere stato con noi, buona Music Week allora, grazie a voi, ci vediamo a Milano. Appunto, andate sul sito e tutte le informazioni sono in tempo reale, cambiano e si aggiornano per tutta la prossima settimana. Ricco, ricchissimo, grazie Luca, presto! Ciao a tutti, grazie. Noi invece adesso partiamo, non per Milano, andiamo a scoprire un nuovo luogo, come facciamo ogni sabato. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Pentedattilo, l'antico Pentadactylos, cioè cinque dita, è un piccolo borgo, frazione di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Deve il suo nome ad una roccia di arenaria che lo sovrasta e che con i suoi cinque pinnacoli sembra una gigantesca mano di pietra. Un'immagine estremamente suggestiva che rende ancor più caratteristica questa zona, che è una delle più particolari di tutta la Calabria, esempio mirabile dell'adattamento alla natura dell'uomo. E come sempre a quest'ora a RadioTube è il momento di fare le valigie e partire. Non andiamo in luoghi lontanissimi, perché? Perché anche nei luoghi più vicini c'è sempre qualcosa di meraviglioso da vedere. Lo stiamo imparando in questo periodo, perché stiamo veramente viaggiando con la fantasia e anche con la mente, sperando di poter davvero fare presto delle valigie per andare a vedere tutte le cose belle che ci suggerisce Anarita D'Ambrosio. Ciao Anarita! Ciao! Allora, dove andiamo questa settimana? Qualcosa già abbiamo intuito dall'audio che abbiamo sentito insieme, dalla nostra audioguida sul sito di Radio 24, su quello del Touring Club Italiano. Ovviamente dovete scaricarla assolutamente, perché vi porterà sullo Stretto. Un luogo fantastico. Un luogo di storia, un luogo che ci fa riflettere, ci fa sognare. Diciamo che in questi giorni e fino al 31 di gennaio 2018, quindi il tempo a disposizione lo avete, c'è un motivo in più per saperne di più sullo Stretto e per visitare Messina e Reggio Calabria, le due splendide città sullo Stretto. Siamo democratici, andiamo da una parte e dall'altra dello Stretto. Certo, perché costruiamo un ponte simbolico. Questo ponte ne abbiamo tanto parlato, ma non si riesce a costruirlo. E allora la mostra della quale vogliamo parlarvi è riuscita in questo intento di costruire simbolicamente un ponte tra Zancle e Region, due città a controllo dello Stretto. Questo è il titolo dell'evento di questa mostra, che è allestita presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e organizzata dal direttore del museo Carmelo Malacrino e, l'abbiamo ospite e la ringraziamo, da Gabriella Tigano, responsabile dell'unità operativa archeologica della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina. Salve! Salve, buonasera a tutti! Buonasera! Allora, buonasera. È un ponte simbolico, possiamo dire così? tra le due città. Sì, assolutamente, è un ponte simbolico, un ponte culturale, è un ponte che chi verrà avrà modo di vedere la mostra, leggerà attraverso i reperti archeologici che abbiamo selezionato proprio per questo evento. Sono quasi 300, sono tantissimi, vanno dall'età del ferro addirittura, no? Sì. Diciamo, la mostra si propone proprio di evidenziare i forti legami culturali esistenti tra le due città sorte sulle sponde dello stretto, su questo braccio di mare che nel corso dei secoli ha legato e diviso le due città. Chiaramente abbiamo dovuto scegliere un ambito cronologico ben preciso, si va, come diceva lei, dal X secolo avanti Cristo, dall'età del ferro, quindi dal periodo di poco antecedente alla colonizzazione greca, a questo evento straordinario che tanto è inciso sulle sorti del nostro Mediterraneo, nel quale si inquadrano appunto la fondazione prima di Zancle e poi appunto sono gli Zanclei che fondano di fronte la città di Reggio per poter controllare proprio questo braccio di mare che è stato da sempre un ponte, un punto di passaggio tra l'Oriente e l'Occidente. Questa mostra è la prima volta che i reperti delle due città vengono esposti insieme, perché certo, in alcune vetrine abbiamo anche scelto proprio di mettere insieme, mescolandoli questi materiali, proprio il ponte, proprio per fare capire, proprio per realizzare questo ponte. Marta, ma tu sei mai stata a Reggio Calabria? Allora sì, sono stata a Reggio Calabria, ho anche molti amici a Reggio Calabria e invidio soprattutto una mia amica che la mattina fa le previsioni del tempo facendo le foto dal terrazzo di casa, perché a seconda di quanto si vede l'altra sponda capisce che tempo fa. Io la invidio tantissimo. Sì, a Reggio che Messina sono posti straordinari e vabbè, insomma, vale davvero la pena andarli a visitare. Non sono così scontate come mete turistiche, e invece. E sono due città gemelle, come ci ha spiegato, e torniamo a ringraziarla, Gabriella Tigano, invitando tutti a visitare la mostra Zancle e Region fino al 31 gennaio 2018 a Reggio Calabria. Grazie. Grazie a voi. Anna Rita, al prossimo sabato per un altro viaggio. Ciao a tutti. Radio Tube Social Village. A fine lo giorno è stato tutto qua. Che è successo a Pietro? La gente che è tutto a posto, padre. E non nome! Io già sapevo. Tu me li la portare a rete viva. O era morì a pressa is. Senza vostro padre, secondo gli anni scambia con me una bomba orologeria. Lo sai come si dice, malammo? Vicerei prima o poi a divento peggio nemico del re. Gennaro, Ciro di Marzio, non si sapeva più niente. Confra, ma ci fai andare se fosse in me? Non ti sono confrato. Sono immortale secondo gli anni, eh? L'immortale è morto. Quello che è successo in tuo quartiere ci ha imparato una cosa sola. I Savastà non si toccano. Dell'anno televisivo. Perché? Perché tutti hanno aspettato il ritorno di una serie che ha fatto spaventare, che ha lasciato col fiato sospeso, ha fatto molto arrabbiare, talvolta ha fatto anche divertire, perché no, tra le righe. Finalmente è qui, è tornata. Beh, l'avete capito, stiamo parlando di Gomorra, l'avete capito dal piccolo audio che abbiamo ascoltato insieme. Ma questa volta, ragazzi, il potere è tutto alle donne. Allora, a Gomorra non so, però qui a Radio 24 sì, io sono con due splendide signore, le splendide protagoniste femminili di Gomorra, Cristina Donadio, Chanel. Ciao, eccola a tutti. Qua in persona. L'anno scorso, quando sei stata nostra ospite, è impazzita la radio, è impazzita di messaggi, quindi sarà lo stesso anche stavolta. E poi abbiamo la straordinaria Patrizia Santoro, che è cristiana dell'Anna. Ciao Cristiana, grazie. Io per aver detto il cognome. Detto. Perché? Perché nessuno nomina il cognome di Patrizia. Patrizia Santoro, no? Sì. Cioè, sai che, ma forse a me viene in mente perché lo collego a me. Santoro. Esatto, mi sono sempre ricordato per quello. Allora ragazze, posso dire che Gomorra è stata la serie televisiva che ha dato più forza ai personaggi femminili. Come sì, sta Chanel? Come una iena in gabbia. Ecco, ecco, mi piace molto. Sono un po' Sciupatella dietro a quelle barre. Ma più che Sciupatella sta con una pazza. Non ci stupisce, non ci stupisce. Patrizia come sta? Patrizia è molto triste, parte tristissima, triste e molto arrabbiata, ma soprattutto triste per la perdita di Don Pietro. Certo, certo, non sono spoiler, perché se non avete visto la seconda stagione siete marziani probabilmente, perché probabilmente non eravate su questa terra. Come avete preso quest'ansia di conoscere, intanto già da mesi, quando andrà in onda, quando, sapete che ogni volta che c'era una conferenza di Sky qualcuno chiedeva, sì ma Gomorra quando? Sempre. Non ho dubbi, non avevo dubbi. È diventato ormai divertente sapere come va a finire una serie che aspetta tutto il mondo, sapere quando la vedranno, come la vedranno e dire io lo so. No. Ma quando l'ansia è degli altri è molto più facile, no? Non è la nostra, è l'ansia degli altri, allora stanno lì a chiedere. E allora, e poi la cosa più così, più banale è quella che tutti, ma che succederà a, che succederà? Mi chiedono, dai, dimmi qualcosa. Esatto. Prima, quindi, parenti, amici, persone che vi incontrano. Ma sì, ma proprio veramente parenti strettissimi. Vabbè, non si può, però no, ragazzi. Poi ti togli la sorpresa. No, perché c'è gente che, cioè, anche i parenti stretti dice, ma poi come va a finire? No, non lo voglio sapere. Allora fanno tutto loro, botta e risposta. Allora, mi dici che succede? Non lo voglio sapere. Sicuramente qualcuno, se non ha già scritto il messaggio, lo sta scrivendo. Qualcuno dirà, però sempre queste serie televisive, questi film che raccontano il brutto dell'Italia. Allora, diciamolo subito, cioè prima che schiaccino invio, che tanto lo so. Guarda la mano. Il pollice verso. Schiacciate invio col pollice verso. Esatto. Cosa dobbiamo dire? Ma secondo me è una polemica ormai vecchia, usurata, stantia. Gomorra piace e ha un successo globale perché è fatta bene, perché è bella, perché è cinema puro. Le polemiche non ci sono perché comunque è falsa coscienza, basta. Se bastasse una fiction a orientare il bene o il male dell'animo umano, sarebbe molto facile, no? Faremmo tutte storie di preti e naviganti e poeti. Verissimo. No, ma poi è una polemica soltanto italiana. Mentre Gomorra è andato veramente in tutto il mondo. È andato in tutto il mondo e nessuno fa questa polemica, nessuno. Analizzare questo aspetto della società significa analizzare la società stessa. Come si evolve il nostro mondo, la nostra società, così si evolve il crimine. Quindi ignorarlo sarebbe soltanto ignorare una conseguenza naturale dell'evolversi dei nostri paesi. Bisogna conoscerli, capirli, approfondirli invece di cercare di nasconderli. In quanto vi ha cambiato, se vi ha cambiato, Gomorra? Vabbè, tanto. Sì? A me tantissimo, sì. Mi ha dato proprio un'impostazione mentale diversa, o forse ha consolidato quella che c'era prima, che non, forse di cui avevo meno sicurezza, non so. Forse sono state anche stesso le polemiche che ci sono state, che hanno dato più forza a tutto ciò in cui io credo, quindi sì, l'orgoglio di fare questa serie, di raccontare e dare voce a questi personaggi mi ha resa molto più forte. Che meraviglia. Ma a me no, io credo che non abbia cambiato il mio modo di intendere e di vivere il mestiere che ho deciso di fare molti anni fa. È cambiato lo sguardo degli altri su di me, questo è il meccanismo. È arrivata Chanel nella mia vita, è entrata Gomorra, questa macchina da guerra, e io ho aderito come ho aderito sempre a tutti i progetti in cui ho deciso di condividere. Questa volta però è lo sguardo degli altri, quindi lo sguardo degli altri che è bellissimo, perché è come se si aprissero dei mondi che per loro erano sconosciuti, certo. Non per me. E quindi il mondo del teatro, oppure che si può essere appunto contemporaneamente Chanel e Agave nelle Baccanti di Euripide, voglio dire, per me è normale, è il lavoro che mi sono scelta, per gli altri forse no, perché Chanel è arrivata con tale forza, con tale veramente capacità proprio di smuovere tutte le acque, che molti hanno pensato che magari era la prima cosa che entrava nella mia vita. Questo successo della gente che è andata a vederlo in massa al cinema, che effetto vi fa? Bello. Io sono strafelice. Finalmente si rende giustizia al nostro prodotto. Ci sono talmente tante persone coinvolte nella realizzazione di Gomorra. Il lavoro è stato così duro, orari veramente improponibili. Da cinema non poteva non finire al cinema. Doveva per forza essere consegnato come esperienza cinematografica, per i suoni, per le luci, per tutto. Ce lo meritavamo e se lo meritava il pubblico. Secondo me il pubblico, posso dirti una mia sensazione, il pubblico non ha pensato neanche quale potesse essere la forza poi che di cui si è reso conto solo dopo, perché sono andati là perché Gomorra, perché comunque è Gomorra, e invece non si, cioè sono sicura che lo stesso effetto che ha fatto a noi, che eravamo totalmente catturati da questo maxi schermo che proprio ti prendeva e ti infilava dentro le immagini, che anche loro saranno usciti dicendo wow, cioè è molto di più di quello che si aspettavano, perché loro sono andati là solo perché sono Gomorra. E poi quando le vedi nello schermo grande. No, ma esatto, da dire, cioè, esatto, forse da dire anche un'altra cosa, il cinema è sempre stato un momento di unione, raccoglie le persone, le mette insieme, mentre la televisione tende un po' a isolarle. Invece Gomorra ha avuto l'effetto contrario sulle persone, le ha unite. A Napoli è abbastanza, è un'usanza ormai quella di riunirsi in gruppi di amici, l'anno scorso era, mi sembra, il martedì, adesso sarà il venerdì, sì, mangiarsi a pizza, quello che è, e vedersi Gomorra insieme. Quindi succedeva solo l'evento per le partite, solo per te. L'evento cinematografico adesso ha semplicemente amplificato questo fenomeno. E che si era un po' perso al cinema. Sì. Si fa anche a Milano di vederlo insieme, ma secondo me a Napoli con delle cose più buone da mangiare. Ho questa sensazione, però, non lo so, vorrei provare. Anche a Roma, ma sai che mi ricordo che l'anno scorso a Roma, mentre facevano le puntate della seconda serie, alcuni ristoranti avevano cambiato il giorno di chiusura mettendolo il martedì perché volevano vederselo a casa con gli amici, e molti avevano attuato questa politica. Quindi, straordinario. Per vedersela a casa? Sì, per vedersela a casa, quindi magari chiudevano invece che il mercoledì, il martedì. Il martedì chiuso e stavano a casa a godersi Gomorra. Bellissimo. Beh, i grandi eventi che fanno ricca la televisione sono veramente qualcosa di straordinario. Allora, non mi incastrerò con i nomi. Grazie a Cristina Donadio Chanel, grazie a Cristiana Dell'Anna, Patrizia Santoro, mi viene da dire anche il cognome. Ragazze, siete anche bellissime, la radio non si vede, ve lo dico io. Grazie mille, grazie a voi, a tutti. Ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è. Ho perso il gusto, non ha sapore quest'alito di angelo che mi lecca il cuore, ma credo di camminare dritto sull'acqua e su quello che non c'è. Arriva l'alba o forse no, a volte ciò che sembra quello che non c'è. Gli After Hours è un pezzo pazzesco nella storia di questo gruppo, che è appena uscito con un'opera antologica enorme. Noi li abbiamo incontrati qualche giorno fa, abbiamo incontrato Manuel Agnelli in particolare. Allora, cosa facciamo? Adesso ci informiamo su come sta andando la situazione su strade e autostrade, perché come sempre il sabato pomeriggio ci sono un sacco di ascoltatori in giro e quindi è giusto sapere come è la situazione del traffico. Ma noi ci ritroviamo tra poco per parlare di musica ancora in Radio Tube Social Village, appunto con gli After Hours. Radio Tube Social Village. Sei il colore che non ho e non catturerò mai. se ci fosse un metodo, vorrei che fosse il mio. Canta Carmen Consoli insieme agli After Hours ed è un singolo nuovo, è uscito in occasione dell'antologia Foto di pura gioia. Sono 30 anni di carriera per gli After Hours. Lo stesso Manuel Agnelli l'ha definito un mattone, ma non perché sia pesante, se non fisicamente, perché è proprio una grossa opera, perché appunto sono 30 anni di musica, 30 anni di storia, 30 anni in cui gli After Hours sono andati un po' alla ricerca delle loro radici. Lo stesso Manuel Agnelli è andato un po' alla ricerca delle sue radici, si capisce già dall'immagine di questo grosso cofanetto, perché è lui da bambino che fa la faccia cattiva con una pistola in mano, il bimbo Manuel Agnelli e il grande Manuel Agnelli che va alla ricerca delle sue radici. Questa è una foto che mi ha fatto mio padre quando è tornato da un viaggio in Africa. Una parte della mia famiglia ha vissuto in Africa per un sacco di tempo, nell'allora Zaire o Congo belga, e praticamente mio padre andava spesso a trovare suo padre e suo fratello e ogni tanto mi portava dei regali. Siccome mi portava sempre regali che io potevo usare fino a un certo punto, archi, tamburi eccetera eccetera, probabilmente in aeroporto da qualche parte mi ha preso il cinturone con la pistola perché sapeva che io ero un fan dei roba anche pre John Wayne e roba del genere, per cui mi ha regalato questa cosa e mi ha fatto questa foto dove io cerco di fare il duro nella foto, no? Cioè sono proprio il killer della situazione, ed è una foto che avevo ritrovato un po' di tempo fa e che è la foto che ispira quello che non c'è, il pezzo poi che inizia appunto a questa foto di pura gioia, no? Di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé a quello che non c'è, e ho ricominciato un po' da lì, dalla casetta dove abitavo, la parte comunque delle radici che per me è sempre stata molto forte, cioè comunque ricordarmi da dove vengo, cosa sono, per me è sempre stato molto importante. E infatti io poi ho scoperto una cosa pazzesca, che Springsteen nella sua biografia dice che nei momenti di crisi pigliava la macchina, guidava fino alla casa di suo padre, no? Guidava intorno un paio di volte alla casa di suo padre e poi se ne tornava a casa e non sapeva perché. Io facevo la stessa cosa, avevo lo stesso tipo di meccanismo, a me serviva per ricordarmi che io esistevo ancora prima di quel momento, no? Per cui nei momenti di crisi andavo, guardavo la casa e mi ricordavo di aver avuto un'esistenza anche prima, di aver avuto un senso anche prima e di essere stato bene, perché quello era un periodo. Ho avuto un'infanzia felice, per cui quella roba lì me la ricordo, no? Quindi le radici da una parte e poi invece strappare le radici dall'altra. Dici sempre le preghiere, conti sempre fino a 10, preghi ancora che non tocchi a te decidere. questi 30 anni degli After Hours, beh, non si può nascondere il fatto che Emanuele Agnelli ultimamente sia molto famoso anche per la sua partecipazione a X Factor. Ma cosa dice lui di questa sua esperienza televisiva? Per me andare in televisione è stato un momento di scoperta anche di una situazione, diciamo, molto diversa da quella che vivo io nella musica, sia come pubblico che come media, che come percezione delle cose. Ho scoperto che abbiamo passato molto poco alla generazione successiva, no? Rispetto a quanto la generazione prima di noi ha comunicato a noi. A noi ci ha comunicato la controcultura, l'autoproduzione, il fatto di poter pensare alla musica come modo di vivere e non solo come modo professionale o come lavoro o per far carriera, diventare famosi, eccetera, eccetera. All'interno del programma mi sono accorto che per la maggior parte del pubblico del programma, io non ero nessuno, non avevo un passato, non ero niente. Perché stavo lì? Vecchio, senza mai aver riempito Wembley. E questa cosa chiaramente all'inizio è stata anche abbastanza dura, anche se utile, perché comunque rimettersi in gioco è sempre utile, ma poi mi ha fatto anche pensare che in un modo o nell'altro le cose che avevamo dato per scontate noi non era giusto darle per scontate. Noi siamo riusciti a vivere 30 anni senza televisione, fino adesso almeno, ed è una delle cose che volevamo comunicare. Esiste una vita al di fuori di lì, può essere una vita sensata, intensa e grande, insomma è un po' un messaggio. Sai che la fortuna è una religione, tu ci credi oppure no, lo capiremo prima o poi che non c'è modo di rinascere. Ma che bilancio fanno a questo punto Emanuele Agnelli, ma anche Rodrigo D'Erasmo degli After Hours, di questi anni insieme? Ma sentiamo un po' cosa dicono. Quando parlavo appunto del pubblico che non ti riconosce se vai in televisione perché non hai riempito gli stadi, non hai venduto 100.000 copie, io però ho fatto questo. Non ho riempito Wembley, non ho venduto 100.000 copie, ma ho 30 anni al di fuori della televisione, al di fuori del mainstream, quasi al di fuori dei media, facendo quello che voglio, non della mia musica, non solo, ma della mia vita, no? Allora, questo è quello che ho fatto quello che volevo per 51 anni della mia vita, non è male, no, se vogliamo. Non tutti quelli che riempiono gli stadi possono dire la stessa cosa, no? E questa è una cosa molto importante, da qui sì, da qui possiamo pensare di partire anche per altre cose, di puntare agli stadi. Di puntare agli stadi, dice Rodrigo D'Erasmo. Ma sì, sarebbe anche ora, con questo successo ritrovato, rinnovato, rinverdito, sempre più forte per gli After Hours. Allora, sono le 16.55 e quasi 30 secondi. È il momento di dare la linea al GR24 delle 17. Noi però ci ritroviamo ancora per un'altra ora in diretta, che è quella di RadioTube Social Network. Un co-conduttore d'eccezione anche per questa puntata. Lo scopriremo tra poco. Ci ritroviamo appunto dopo il giornale radio delle 17 ancora insieme.